fare per nulla depressione, demoralizzazione, ma anzi, sono carichissimi. Io sto appena uscendo da un'assemblea organizzativa, da una punta organizzativa, insomma, dell'assemblea di psicologia, che è iniziata verso le 10 e è terminata 5 minuti fa, in cui abbastanza partecipata, in cui Quanti tutti eravate, infatti? eravamo una cinquantina, comunque un'assemblea, cioè Cinquantina di un'assemblea migliaia. serale. Sì, una cinquantina di migliaia, sì. Vabbè, gli studenti si sono organizzati per i prossimi giorni per mantenere attiva questa occupazione e hanno deciso, insomma, che non vogliono assolutamente abbandonare, vogliono continuare a dimostrare il loro dissenso. E, insomma, si sono organizzati in gruppi per procedere su due livelli, uno dentro l'università e uno per comunicare all'esterno. E dentro l'università si faranno dei workshop, dei controcorsi, delle lezioni alternative, e, insomma, anche dei gruppi di autofinanziamento per far sì che la protesta vada avanti. E poi si faranno invece, sono creati dei gruppi comunicazione per cercare di comunicare anche all'esterno della facoltà. E si vorrà pensare, insomma, dei modi per arrivare ad intercettare le altre lotte, le lotte con i migranti, le lotte tutte le lotte con l'acqua. Parteciperemo al corteo dell'acqua del 4 ottobre. Da paura, Sì. anche ieri era una lotta Dicembre. Del con l'ACE. 4 dicembre, È un dicembre, anno, vabbè, ottobre, ce n'era era un 2 mesi però. fa, va bene, 2 mesi fa, Vabbè, ma sì. la stanchezza ci La piglia a tutti, lo stanchezza, sappiamo. sì, Anche ieri era una lotta abbastanza. con l'acqua, vista la pioggia. Sì, Quindi. Va bene, buono, buono, buono. E insomma, quindi gli animi non si No, sono smollacchiati assolutamente, anzi, troppo. piena felicità a vedere che è raddoppiata l'energia, la forza, la rabbia soprattutto. Va bene, rispetto invece a quello che è successo in Ateneo, non so se tu hai qualche notizia o se sei stata lì in città universitaria, come invece lì la situazione com'è, Sì, insomma. rispetto all'Ateneo, comunque tutte le varie facoltà già che erano occupate stanno procedendo con l'occupazione. Ci sta Lettere, stasera a Lettere c'è stata anche una puntata di Exit sulla 7 in cui sono intervenuti vari studenti della facoltà. Ma c'era Giorgia Meloni o la Gelmini in studio, lo sai per No, caso? la Meloni. Oh. Giorgia No. Meloni! Bei La cozzi! Meloni che si poteva Arrivo dalla giovinezza! risparmiare, si poteva risparmiare molte affermazioni e anche molti giudizi sugli studenti, se li poteva benissimo risparmiare. Comunque hanno aiutato a riscaldare gli animi. Ok, no, ci sono delle grida da fuori, ci siamo un Sì. attimo preoccupati. E quindi, insomma, quali sono le Ubriachi. posizioni Sono gente rispetto? Eh? ubriaca. Le posizioni, Ah, tutti gli ubriaca, studenti chiaro. stanno cercando di costruire delle date di mobilitazione comune anche con le altre varie Credo sia facoltà. la gallina di Domodossola, a occhio e croce. Vai, scusami, continua. No, no, prego. Vabbè, si stanno costruendo delle date comuni. Il 9 dicembre e il 14 saranno delle date comuni a tutta l'Italia. In più, tutte le varie facoltà costruiranno delle azioni giornaliere quotidiane. Faranno, insomma, faranno vivere divertenze Lotta. sì, di lotta, le occupazioni. E quindi, insomma, per gli studenti e le studentesse che ci stanno ascoltando della Sapienza e magari da psicologia, che appuntamento diamo per domani mattina alle ore? Allora, noi ogni giorno intanto faremo una colazione tutti assieme per discutere della giornata e organizzarci. La colazione si chiamerà Colazione da Psico. Venite tutti quanti, cornetto e cappuccino, dalle 9 alle 10 e mezza. Colazione alzata. Da casa, con le Sì. forchette, i piatti. E in più. Faremo un cineforum. Le date ancora saranno da stabilire, ve le comunicherò. Me le E mando un vai, vai, messaggio. vai, vai, ci siamo, vai, vai. E ogni giorno, vabbè, faremo vivere ogni giorno l'università, quindi io penso non avranno problemi a intercettarci, gli studenti di psicologia Mantra che si Dinos. interessano. E un sito qual è? Dici un sito di riferimento, dai. Psicollettivo.org. Mamma, che brava questa, ammazza. Psicollettivo.org. Va bene, insomma, quindi ci siamo o non ci siamo? Ci Ci siamo, siamo, almeno. ci siamo, ci saremo e. Non molliamo, molliamo, ci No, possiamo. mai. Va bene, e allora Resistenza. resistenza, va bene. Ringraziamo Marco Masini in collegamento con noi, sempre molto, molto, molto gentile.